L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. L'8 marzo siamo in diretta su Radio 24 come ogni settimana per raccontare l'Europa da altri punti di vista, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus. Le coordinate per trovarci anche sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale su Facebook e su Twitter, per trovare in diretta minuto per minuto tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Anche oggi tanta carne al fuoco, anche oggi tanti argomenti diversi, anche oggi partiamo però dalla stretta attualità che oggi si chiama proprio 8 marzo, festa della donna. Una vez más, no, por favor, que estoy cansa y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grite que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el valor pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. I dati sulla violenza contro le donne in Europa nell'ambito confermano la portata di un fenomeno allarmante e sconvolgente che colpisce e umilia le donne sotto forme diverse. Questo è il commento dell'onorevole Roberta Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere, alla lettura dei dati usciti pochi giorni fa di questa indagine condotta dall'Agenzia UE per i diritti fondamentali sulla violenza nei confronti delle donne, numeri aberranti che noi anche ora vogliamo commentare proprio in diretta con l'onorevole Angelilli, che è qua con noi. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Buongiorno. Tra l'altro so che è in procinto di entrare al Quirinale per questa giornata, e c'è la celebrazione, no? C'è questo incontro ufficiale tra pochi minuti. Esatto. Onorevole, sono numeri e proprio il riassunto, proprio alcuni dati che già danno l'ampiezza della cosa. Il 33% delle donne intervistate ha subito violenza fisico-sessuale dall'età di 15 anni, il 43% ha subito forme di violenza psicologica da parte del partner, il 18% è stata vittima di stalking. Questa è l'Europa oggi, è un'Europa non dalla parte delle donne? Direi di no, sono dati veramente scioccanti e sono peggiori di quelli già gravissimi che sono noti da anni. Il dato forse più allarmante è che solo una donna su tre, quindi circa il 33% delle donne, denuncia la violenza. Questo credo che sia un fatto terribile. Questo accade anche perché molte donne non hanno consapevolezza dei loro diritti, oppure peggio ancora, si vergognano della violenza subita, pensano che denunciare una violenza non serve assolutamente a nulla, se non addirittura a creare ulteriori problemi, magari sul posto di lavoro, magari diciamo nell'ambiente sociale, proprio perché le donne hanno la sensazione che la società non è dalla loro parte, non è dalla loro parte la giustizia, non sono dalla loro parte i mass media, e quindi questo significa spesso subire una violenza più o meno grave, ma io credo che tutte le forme di violenza siano assolutamente gravi, quindi subire una violenza e poi non denunciarla. Mm-hmm. Forme di violenza anche nuove, il 20% dei ragazzi di età compresa tra i 18 e i 29 anni ha subito molestie attraverso i social network, la posta elettronica, gli SMS. L'Unione Europea sta adottando e ha adottato importanti atti, però non è sufficiente. No, non è sufficiente, infatti proprio due settimane fa abbiamo chiesto con urgenza una direttiva contro la violenza sulle donne, una direttiva che valga in 28 stati membri, anche perché molti dei reati sono transnazionali, pensiamo per esempio ad internet. L'Italia è molto all'avanguardia, ma ci sono altri stati membri che sono meno attrezzati da un punto di vista legislativo e quindi anche da un punto di vista repressivo. Pertanto una donna italiana può subire stalking online, insomma molestie online, che magari provengono da un, diciamo, da un altro stato membro, quindi da un da uno stalker che ha diciamo residenza in un altro stato membro. In quel caso noi non possiamo perseguire diciamo quello stalker, per questo ci vuole una direttiva, proprio con pene severe che siano ovviamente comuni, che siano efficaci e che siano dissuasive. Questo è uno di quegli ambiti dove appunto l'Unione Europea deve fare fronte comune. Poi dal di dentro, Angelilli, come si vive questa situazione? Nel senso che ci sono 28 culture diverse, ci sono 28 approcci diversi, è proprio uno di quegli esempi dove è difficile trovare un tratto comune? Ma io credo che al di là della cultura noi dobbiamo farci difendere dalla legge, quindi la legge deve essere uguale per tutte le donne e tutte le donne devono avere degli strumenti giuridici forti per essere effettivamente libere, per poter godere pienamente dei loro diritti, quindi serve per questo una direttiva. Noi pensiamo, dobbiamo pensare che ci sono stati membri in cui non è previsto il reato di stalking, quindi una donna che subisce atti persecutori magari per anni, sappiamo quanto questi atti possono essere violenti, quanto possono essere invasivi, veramente lesivi della dignità personale, e ci sono purtroppo stati membri che non hanno una legge per questo tipo di reati, quindi ci vuole molto di più e l'Europa deve fare molto di più e imporre agli Stati membri di reagire anche con un piano d'azione, anche questo abbiamo chiesto, mirato alla informazione, alla comunicazione, perché anche attraverso la consapevolezza dei propri diritti si possono difendere e affermare i propri diritti. Diciamo basta alla violenza e ai diritti negati, questo è il filo conduttore della cerimonia in programma tra pochi minuti al Quirinale, in questo filo ideale anche che lega Roma all'Europa. Ringraziamo molto l'onorevole Angelilli, vicepresidente del Parlamento europeo e presidente del gruppo di alto livello sull'uguaglianza di genere. Buona giornata e buon 8 marzo, onorevole. Arrivederci. Grazie davvero. Adesso un Europost-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta con l'altra Europa. Europost-it. Un concorso fotografico per Erasmus Plus. Guardatevi attorno e cercate tutti i più che vedete. Incroci di strade, simboli di somma, qualsiasi tipo di più troviate, fotografatelo e postatelo sulla pagina Facebook www.facebook.com/EU Erasmus Plus Program entro il 20 marzo. Se vincerete, la vostra foto diventerà la foto principale della pagina Facebook dedicata al programma Erasmus Plus per una settimana e vincerete anche un voucher regalo su Amazon. L'altra Europa. My name is Lindsay Nefesh-Clark. I'm founder and managing director of W4, that stands for Women's World Wide Web, a crowdfunding platform dedicated to girls and women's empowerment around the world in both developing and developed countries. Continuiamo a parlare di donna e di Europa e lo facciamo utilizzando anche lo storytelling di cui ne abbiamo parlato la settimana scorsa, perché parlando di storie virtuose si può cercare di replicare, di enfatizzare, di rendere imitabili anche queste avventure. E lo facciamo con una campagna molto importante che cerca di mettere luce su dei numeri che sono assolutamente significativi. Scopo di questa campagna lanciata dalla Commissione in questi giorni è trovare e celebrare modelli che incoraggino le giovani donne e le ragazze a intraprendere lo studio e a perseguire una carriera nel settore delle tecnologie, dell'informazione e della comunicazione, perché in Europa solo 9 sviluppatori su 100 sono donne, solo il 19% dei manager di questo settore è di sesso femminile, quindi l'obiettivo, la missione di questa campagna è proprio quella di cercare di aprire più porte alle donne, cercare di valorizzarle, cercare di offrire nuove opportunità. Una campagna importante e anche innovativa nelle sue modalità, e ne parliamo con Tiziana Arcarese dell'unità di comunicazione, direzione generale delle reti di comunicazione dei contenuti e delle tecnologie della Commissione Europea. Buongiorno Arcarese, benvenuta all'Altra Europa. Salve. Buon 8 marzo anche a lei. Una campagna specifica, no? Sembra anche molto stretta come target, però assolutamente innovativa nei modi. Questa è un'esigenza che nasce solo da questi numeri di cui abbiamo accennato poco fa? Si inquadra in generale nelle politiche a favore dell'universo femminile. Sì. E comunque aumentare la partecipazione delle donne nella forza lavoro delle tecnologie informatiche, della telecomunicazione, è una delle azioni specifiche dell'agenda digitale. Uh-huh. E come lei ha appena accennato, i numeri sono preoccupanti. Lo studio che è stato condotto evidenzia un'urgenza di intraprendere delle azioni, e insieme ai dati che lei ha già dato ce n'è uno ancora più preoccupante, che è il calo delle donne laureate in informatica, per esempio. Quindi aumentare posti di lavoro, aumentare l'ingresso delle donne nel campo delle tecnologie, della comunicazione, aumentare l'ingresso universitario, anche questo è quello che ha appena detto. Assolutamente per questo. In che modo? Qual è il cuore della campagna? Il cuore della campagna quindi è indirizzato alle ragazze che devono intraprendere una qualsiasi carriera, e quindi indirizzarle e farle capire che è possibile e che è una carriera bella, sia di studio che di carriera lavorativa. Cioè, là fuori fra poco ci saranno 900.000 posti di lavoro disponibili nel campo delle tecnologie informatiche, e quindi dobbiamo spingere le giovani europee a sfruttare questo trend positivo di occupazione, uno dei pochi in Europa in questo momento. E poiché è indirizzato alle giovani leve, e Facebook è stato la piattaforma naturale, certo, da scegliere. Every Girl Digital, questo è il nome della campagna. Si usa un po' questo concetto di modelli di ruoli da seguire, nel senso che mettere al centro un po' di storie di ragazze, di donne che ce l'hanno fatta, ma non solo, giusto? Sì. Lo studio ha anche evidenziato che come azione, diciamo, per attrarre le studentesse verso la carriera digitale, è fondamentale mettere in evidenza questi modelli femminili e dare anche visibilità alle donne del comparto, che non sono quasi mai visibili. Per cui abbiamo già preparato delle storie di persone che si occupano, di donne che si occupano di digitale nel mondo, ad alti livelli. Cioè, quella che abbiamo sentito prima nell'audio è Lindsay Nefesh Clark, che è fondatrice e managing director di Women's World Wide Web, ed è un'imprenditrice che si occupa di una piattaforma collaborativa dedicata ad aumentare le conoscenze tecnologiche delle donne in città e aree rurali, anche in paesi in via di sviluppo, Uganda, Sudafrica, preparano dei training, delle formazioni nelle Filippine, e quindi una donna che si occupa delle donne. Ma ci sono anche altri esempi. Ci sono anche storie italiane? Non ancora, insomma, però quello che ci aspettiamo, questi sono solamente dei lanci che abbiamo preparato, ma ci aspettiamo storie anche normali, non di managing director, ma di persone nella loro lingua, perché poi le ragazze devono essere in grado di capire il messaggio, di carriera e del piacere che si ha anche nello studiare l'informatica. Quindi insomma cercare di, così quasi per osmosi, no? Guardando questi video, pubblicando questi video, allargare, contagiare la passione per lo studio delle tecnologie, dell'informatica, della comunicazione, per aumentare un po' la base anche delle ragazze nel settore, e poi appunto di scalino in scalino raggiungere anche i ruoli più importanti, che è quello di cui c'è assolutamente, assolutamente bisogno. Il sito internet o la pagina Facebook di riferimento qual è? La pagina Facebook di riferimento è Every Girl Digital. Perfetto, quindi facilissima da trovare, lì ci sono tutte le istruzioni per partecipare. Cioè, può fare un video selfie e mandarlo. Infatti, quindi insomma, si può essere veramente, ognuno può essere protagonista di questa campagna. Grazie davvero Arcarese, buon 8 marzo ancora e buon lavoro. Grazie. Salve, grazie, salve. Grazie a voi. Europost-it. Modello Nazioni Unite a Maastricht. La simulazione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, che si tiene ogni anno per permettere a studenti e cittadini di capire come funziona il processo decisionale in questa organizzazione internazionale, ma anche capire come funzionano le altre organizzazioni come la NATO e non ultima l'Unione Europea, si svolgerà dal 30 aprile al 4 maggio a Maastricht, Olanda. È organizzato dagli studenti dell'Associazione Studentesca delle Nazioni Unite dell'Università di Maastricht e il tema di quest'anno è affrontare le sfide nel mondo postmoderno. Per iscriversi è prevista una quota di partecipazione e bisogna farlo entro il 31 marzo. Trovate tutto su euromoon.org. Visto che parliamo di donne, visto che è l'8 marzo, adesso vi voglio presentare una donna che quest'anno è stata, questa settimana è stata raccontata dai quotidiani e sono molto contento di averla qua con noi. Una donna di soli, se possiamo usare questa parola, 15 anni. Ciao Maria, benvenuta all'Altra Europa. Salve, grazie per questa partecipazione. L'hai riconosciuto questo inno? È certo, è l'inno della mia squadra, del Bayern Monaco. Eccola lì. Che bella sorpresa, veramente. Allora Maria, non so da dove partire per questa intervista. Il titolo del Corriere del Veneto diceva: Maria, la quindicenne prodigio che incanta la Merkel e Napolitano. Intanto partiamo proprio da qui. Tu tieni una corrispondenza con Angela Merkel? Certamente. Le ho scritto la mia prima lettera dopo aver ricevuto il titolo di Alfiere della Repubblica perché era il mio modello e ho deciso di mettermi in contatto con lei. E ti ha risposto? Certo, mm-hmm. Mi ha risposto con una lettera di complimenti, mi ha inviato la sua carta autografata e poi la corrispondenza è andata avanti fino ad arrivare all'invito in Cancelleria Federale. Sei già andata? Certo, 15 giugno 2013. È stata una delle esperienze più belle della mia vita, davvero. Ci credo. Ma Maria, allora tu parli quattro lingue, sei molto brava a scuola, hai ricevuto questa onorificenza dal Presidente della Repubblica, onorificenza che io non conoscevo neppure. Cosa significa essere alfiere della Repubblica? È l'equivalente del Cavaliere della Repubblica per i minori di 18 anni. Uh-huh. E tu hai... Viene conferito per dei particolari meriti a livello culturale o sociale o sportivo. Tu cosa avevi fatto? Ho ricevuto questo titolo per la pubblicazione dei miei primi due libri e per i miei molteplici interessi culturali. Infatti, che vanno dalla mummia di Ozi alle lingue, passando per un mondo di interessi. Però sì. Rimango in questo ambito, nell'ambito europeo. Cosa ti ha portato a scrivere alla Merkel? Qual è stato lo spunto? Perché hai avuto voglia di entrare in contatto con lei? Beh, ho iniziato a seguire l'operato della cancelliera Merkel a partire dalla crisi in Grecia e ne ho ammirato la precisione nel lavoro, il modo in cui riesca ad anteporre gli interessi della nazione a quelli che magari sono i problemi interni alla Germania oppure le discussioni interne e quindi la sua semplicità inoltre, per questo ho deciso di scriverle. Uh-huh. E tu frequenti con voti altissimi il liceo linguistico New Cambridge e parli molto bene il tedesco. Con la Merkel vi comunicate in tedesco direttamente? Le lettere sono tutte in tedesco, le lettere sì. E quando sei andata lei ha parlato, avete chiacchierato anche lì in tedesco? Ho incontrato, lei non c'era perché stava facendo il programma elettorale del partito, però ho incontrato il ministro delle finanze Schäuble e con lui ho parlato tutto in tedesco, sì. Abbiamo parlato della crisi di Cipro, delle elezioni federali tedesche che erano mai prossime e poi gli ho un po' raccontato dei miei libri. E cosa ti ha detto? È rimasto stupito anche lui, penso. Sì, è rimasto stupito, certo, e mi ha fatto molti complimenti. Ho trovato veramente una persona semplice, ma dal carattere molto forte, questo era evidente. Mm-hmm. Che cos'è per te l'Europa? Allora, per me l'Europa dovrebbe essere per tutti un'opportunità, l'Europa, secondo me. Purtroppo io penso che la Germania sia stata in grado sempre di sfruttare l'Europa per appunto aiutare i suoi cittadini, adesso ho visto anche con la recente alluvione nel sud della Germania, quest'estate, questo maggio. Purtroppo l'Italia, l'Europa non la sa sfruttare, purtroppo non la sa utilizzare al meglio, nemmeno rimette i fondi per esempio per Pompei che nel 2015 se non verranno utilizzati torneranno nelle casse di Bruxelles, quindi questo un po' mi dispiace. Maria, tu hai 15 anni, sei giovanissima. E credo che questi non siano gli argomenti con cui chiacchieri quotidianamente con i tuoi amici. Quali sono le tue fonti di informazione? Cosa leggi? Dove studi? Io leggo per esempio moltissimi giornali, leggo anche in lingua straniera quando posso acquistarli perché è difficile, comunque qua in Italia leggo non solo un tipo di giornale ma ne leggo anche diversi, ne leggo proprio perché mi piace avere un'informazione che spazia anche da varie fonti di idee politiche diverse. Comunque leggo anche il televideo delle varie reti, seguo vari telegiornali, quindi faccio il possibile per tenermi informata. Hai partecipato, qui cambio un attimo argomento ma è troppo curioso, hai partecipato anche a questi esperimenti sulla mummia di Ozi, che tu da grande vorresti fare l'antropologa, leggevo nell'articolo, e sì, ti piacerebbe proprio studiare in particolare questa mummia, vero? Certamente, in agosto ho preso parte alla nebulizzazione di Ozi, che è un processo conservativo ripetuto ogni 2-3 mesi sulla mummia, e per me è stata un'esperienza veramente particolare perché ho potuto vedere con i miei occhi Ozi direttamente e non più attraverso un vetro, e ho potuto ammirare dei particolari che dalla cella frigorifera dall'esterno come turisti è impossibile vedere. Ed è stata, immagino, una bellissima esperienza. Sì, certamente. E perché abbiamo iniziato col Bayern Monaco? Come mai questa squadra hai nel cuore? Beh, sono del Bayern Monaco perché è una squadra veramente mi è sempre piaciuta, soprattutto perché hanno tirato molti ragazzi dai vivai, e quindi si vede appunto come abbiano appunto cura anche dei tedeschi che hanno lì in Germania. Adesso per esempio Goetze, hanno speso milioni per comprarlo, Goetze, che è un tedesco, non hanno cercato top player da altre parti, hanno preso un tedesco. Fanno il possibile per portare il nome della Germania nel mondo, questo è certo. E poi hanno una gestione finanziaria che sono sempre in attivo e quindi riescono a spendere quello che effettivamente guadagnano, quindi cercano di non far debiti, stanno ripagando anche i debiti dello stadio, per questo è anche un modello finanziario secondo me da imitare il Bayern Monaco. Fantastica. Maria Zanchetta, 15 anni, con te Maria si può parlare della crisi di Cipro al Bayern Monaco con facilità, passando per Ozi, vedi, non ci sono problemi. Salutiamoci tornando alla Merkel, a che punto è la comunicazione? Hai scritto tu adesso, ha scritto lei, le deve riscrivere come... Allora, io lunedì penso, se non ci hanno controordini, uscirò sulla Die Welt, un quotidiano tedesco. Forse le scriverò per raccontarle le ultime esperienze anche qui con la televisione italiana. Anche in Germania non c'è successo qualche fatto di cronaca, quindi vorrei darle la mia opinione che come sempre è molto positiva. Va bene, lo seguiremo sicuramente e spero di ritrovarti qui all'Altra Europa. Grazie. Maria, in bocca al lupo, complimenti, ma insomma mi sembrano complimenti quasi ovvi, e spero che tu sia uno stimolo anche per tutti gli altri quindicenni d'Italia, che magari non devono diventare come te perché sei tanta roba tu, però insomma sei veramente una bella miccia accesa, quindi puoi essere un qualcosa così, uno stimolo, mi sembra la parola migliore. Grazie davvero Maria. Io cerco di raccontare la mia storia proprio per dare un esempio, per dire ai ragazzi di tirare fuori la propria passione e di cercare di andare avanti con impegno e anche comunque facendo fatica, perché quella c'è sempre, e per arrivare ad un obiettivo c'è sempre da metterci tanta fatica. Grazie davvero Maria, buon 8 marzo anche a te, ciao. Grazie a lei altrettanto, grazie. Un euro post-it, la pubblicità, poi ancora qua in diretta con l'Altra Europa. Euro post-it. Consumer Classroom, concorso per le scuole. Consumer Classroom è un concorso patrocinato dalla Commissione Europea che invita tutti gli studenti delle scuole di secondo grado di tutta l'Unione Europea dai 12 ai 18 anni ad usare la loro creatività per parlare di un tema legato al consumo. Il tema di quest'anno è lo shopping online. Bisogna creare un video, una lezione multimediale o una serie di foto per raccontare questo tema. Sulle pratiche corrette per lo shopping online, i vantaggi e gli svantaggi. In palio diversi premi, tra cui un viaggio a Bruxelles oppure oggetti per la propria classe e scuola. Il progetto vincente sarà anche presentato sul sito ufficiale. C'è tempo fino al 2 aprile per partecipare. Andate su consumerclassroom.eu. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa. Ci trovate su Facebook e su Twitter, Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia ai nostri account, radio24.it il sito da cui potete poi riascoltare e scaricare la puntata. Sabato scorso ci siamo salutati ascoltando le parole di Enrico Vigna, presidente dell'associazione Onlus SOS Jugoslavia, SOS Kosovo Metochia di Torino, che ci ha fatto una fotografia di quello che è il Kosovo oggi, perché anche questo è raccontare l'altra Europa, immagini devastanti, immagini crude di questo Kosovo dove tutto viene calpestata la memoria, la dignità, vengono calpestati i morti. E stiamo parlando con Enrico proprio per capire da dove ripartire, capire cosa si può fare. Ed Enrico è qua con noi anche oggi. Ciao Enrico, ben ritornato all'altra Europa. Buongiorno a tutti. Allora, sabato scorso appunto ci hai raccontato di questa terra dimenticata, terra calpestata, terra maltrattata, terra violentata. E da dove ripartire? Ci siamo lasciati con quella domanda: come l'Europa può dare una mano al Kosovo, come l'Europa può accogliere il Kosovo, come l'Europa può essere presente lì per cambiare realmente le cose? Ci sono soluzioni, ci sono possibilità? È una situazione veramente difficile, delicata e anche abbastanza tragica per chi frequenta quelle terre. Dopo l'atto di indipendenza, che lo stesso generale Mini ha definito un atto di forzatura internazionale non fondato su criteri di giustizia, è stato un atto illegittimo ed illegale, sia rispetto alle costituzioni della ex Jugoslavia che della Serbia, che dello stesso diritto internazionale. Ora, da dove ripartire? Questa è una domanda molto difficile. Voi da dove avete scelto di ripartire? I vostri progetti su cosa lavorano prevalentemente? Noi abbiamo deciso non di ripartire, ma di partire dai giorni già dei bombardamenti del 1999 dalla gente, sì. Non da associazioni, non da partiti, ma dalla gente, come dicevi tu prima, violentata, dalla gente umiliata e dalla gente sconfitta, prima di tutto dalla guerra. All'interno di questi progetti noi abbiamo il focus sui bambini, perché se un processo di futuro, di speranza, può ricominciare, noi crediamo, anche per una fotografia di un livello di odio che ormai esiste in quelle terre, dal punto di vista reciproco anche, i bambini possono essere il seme di un futuro diverso. E quindi noi abbiamo scelto una serie di progetti che vanno appunto dai figli dei disoccupati, dai figli dei rapiti del Kosovo. Non so quanti sanno che ci sono 1300 scomparsi nel Kosovo dal 2000 in poi. Abbiamo scelto progetti con le vedove di guerra, con i bambini delle associazioni malati di sclerosi multipla, che non solo non hanno le cure, non hanno nemmeno le pomate per i decubiti. Quindi abbiamo deciso di ripartire da queste realtà per costruire dei ponti di solidarietà, e nei nostri progetti non ci sono soltanto serbi, ci sono bambini serbi, bambini rom, bambini parte di quella minoranza albanese che non voleva guerra, che non voleva terrorismo e che quindi è stata colpita in modo durissimo dall'UCK, forse ancora in modo più violento che non le stesse famiglie serbe. Quindi questo, diciamo, per noi è stato un aspetto. L'altro aspetto io penso che sia un processo di riconciliazione, è un po' un'utopia. Certo. Però il Sudafrica, l'Irlanda del Nord sono stati due esperimenti, due laboratori che potrebbero anche essere utili per quell'area lì. Però ci sono due condizioni che finora sono inesistenti in Kosovo. Una volontà delle parti. Sì, certo. E la parte albanese, diciamo, io quando parlo di albanesi non mi riferisco mai a un'etnia, perché i popoli non sono una cosa sola e quindi come ogni popolo ci sono aspetti positivi e negativi. Però la leadership, che è la ex leadership guerrigliera dell'UCK, che oggi governa il Kosovo, fra l'altro con un pugno duro e di ferro anche rispetto alla sua gente, non ha nessuna intenzione, nessuna volontà in questo momento di percorrere un processo di conciliazione. E l'altra... continua a imporre delle cose. L'altra condizione invece qual è? L'altra condizione è quella della volontà della comunità internazionale, quella fondamentale, che però ormai è lontana e disinteressata a tutto. Continua a mantenere una presenza militare, perché se non ci fossero per esempio le truppe della KFOR, fra l'altro italiane, a cui va dato merito di un lavoro preciso e corretto intorno al monastero di Decani, per esempio, che è il più antico monastero ortodosso dei Balcani, quel monastero oggi non ci sarebbe più. E quindi la presenza militare resta anche come forma di controllo sulla polizia kosovara, che non è certo una polizia indipendente e che tiene conto dei diritti di tutti. Enrico, quindi c'hai la volontà e la conciliazione e appunto questa collaborazione con l'Unione Europea e comunque con tutto il mondo internazionale. Grazie a voi, Enrico, per averci dato un'ulteriore fotografia di quella che è, di quello che è il Kosovo oggi. Ricordiamo sosjugoslaviakosovo.com, il sito per conoscere tutte le vostre attività ed eventualmente anche per collaborare. Enrico, buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori. Grazie, ciao, buon sabato. Ciao. Europost-it. Imparare a progettare aiuti umanitari. Nel mese di giugno 2014, l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, in collaborazione con Fondazione Punto Sud, propone un corso specialistico per apprendere come preparare un progetto di emergenza finanziato da ECHO, l'Ufficio per gli Aiuti Umanitari della Commissione Europea. Il corso dura 5 giorni, dove si apprenderà come funziona ECHO, come vengono prese le decisioni e quali sono le regole da seguire, per poi imparare a scrivere una proposta di progetto in tutte le sue fasi. Il corso è rivolto a lavoratori del settore, ma anche a studenti e laureati che vogliono lavorare nel settore umanitario. È necessaria una buona conoscenza dell'inglese. Per la pre-iscrizione c'è tempo fino al 4 aprile. Per informazioni andate sul sito dell'ISPI, ispionline.it. Als ik uit het raam kijk en naar mijn toekomst kijk, dan zie ik een tweeledige toekomst voor me. Un solo bagaglio a mano, un biglietto, non troppi documenti, poche ore di viaggio per attraversare un continente. Questo è un po' l'identikit di una generazione, la generazione low cost, la generazione ad alta mobilità. E proprio attraverso questa generazione, partendo da Schengen, là dove è stato firmato il primo trattato di libera circolazione, fino a Copenaghen, capitale verde del 2014. Attraverso questo bagaglio a mano forse si può raccontare un'altra Europa. E quello che hanno fatto Alberto Martin e Daniele Manca, ideatori e registi di un documentario in fase di conclusione, credo stiano montando gli ultimi frame, intitolato Generazione ad alta mobilità. Con noi c'è Alberto. Ciao Alberto, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, grazie a voi. Sono qui con Daniele, anche ce l'ho accanto. Ecco, salutacelo. E esiste già questo documentario? Sì, esiste nel nostro hard disk, pronto. Abbiamo cominciato a diffondere il trailer e lavoriamo ad un lancio a breve, speriamo. Stiamo ultimando. E di fatto è anche autobiografico. Avete raccontato la vostra generazione, perché voi siete giovanissimi, voi siete cresciuti con i low cost. Che Europa avete narrato partendo proprio da lì, dal bagaglio a mano? Sì, noi abbiamo 30 anni entrambi, quindi noi siamo ancora un po' anche la generazione dell'Interrail. Uh-huh. E poi niente, da lì in poi a noi sarebbe piaciuto trovare un modo per costruire un ideale diario di composto di pensieri e considerazioni di ragazzi di tutte le nazionalità, e abbiamo cercato di organizzarci costruendo un progetto che ci permettesse anche a livello pratico di arrivare a raccogliere tante testimonianze. Alberto, ti fermo un attimo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. L'altra Europa. Eccoci qua con Alberto Martin, al suo fianco Daniele Manca, i due giovani registi e ideatori di questo progetto, di questo documentario. Allora Alberto, un progetto che in cosa consiste? Avete viaggiato? Avete raccolto testimonianze? Avete fatto interviste? Sì, noi abbiamo semplicemente diffuso un post con la nostra idea sui gruppi dedicati alle varie città lungo l'itinerario, con il social network Couchsurfing, sì, che nasce appunto per permettere ai viaggiatori giovani come noi di condividere ospitalità e di incontrarsi, e le persone che hanno trovato interessante il progetto ci hanno invitati ad intervistarli e poi ci hanno anche ospitato effettivamente. E quindi insomma è stato un incontro reale, non solo virtuale, con queste persone. È questa la generazione che può veramente fare l'Europa secondo te? Noi abbiamo pensato che fosse interessante trovare un modo per raccogliere tante risposte di tante persone, in maniera tale che non fosse l'opinione di Alberto e Daniele a proposito uh-huh. del tema, il concept del film, ma che una risposta eventuale uscisse dalla somma delle risposte di tutti questi ragazzi. E ci sono risposte complessive, cioè alla domanda... con un bagaglio a mano, grazie a un low cost, può nascere una nuova Europa? L'hai trovata una risposta? C'è una tua idea? C'è una visione? Ma tutti questi ragazzi non le vedono le frontiere, per loro la risposta c'è già, è qui, uh-huh. dobbiamo soltanto, abbiamo il privilegio di starci dentro e possiamo pensare come migliorarla, come arricchirla, ma tutti questi ragazzi non vedono i confini, non vedono barriere, pensano di essere... vedono già un'Europa unica. Uh-huh. E dove si può vedere qualcosa? Sul vostro sito? Sì, abbiamo un sito che si chiama highmobilitygeneration.com, c'è semplicemente un trailer al momento, si può vedere questo trailer e poi seguiranno aggiornamenti quando avremo terminato tutto il okay. nostro lavoro. Ma adesso che Ryanair permette anche di avere almeno un bagaglio in più oltre che il bagaglio a mano, vi è crollato un mito? Pochino. Dovremmo fare, non lo so, un sequel. Esatto, bagagli a mano più almeno un bagaglio da imbarcare. Grazie davvero Alberto, complimenti a te, complimenti a Daniele per questo bel progetto. Andate a vedere il sito, perché l'incipit è molto carino ed è sempre un modo nuovo, un modo diverso per fare storytelling, per raccontare questa Europa che è nata e che sta crescendo e sta cambiando. Ciao, buon sabato, grazie. Grazie, ciao. Quella che state ascoltando è una sorta, è un inno ai sottaceti, insomma, prima di partire in macchina, andare a fare un picnic, bisogna fare l'elenco di tutti i cibi cucinati dalla madre, da mangiare durante il viaggio, una canzone di Nino Ferrer con cui introduciamo il prossimo ospite, diamo il benvenuto a Teodora Marinska della Commissione Europea del Turismo. Ciao Teodora, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. La Commissione Europea del Turismo è un'organizzazione indipendente che riunisce tutte le agenzie nazionali di turismo dei paesi europei e ti abbiamo invitata per presentare questo sito, si chiama tastingeurope.com, che è una sorta di vetrina di tutti gli eventi gastronomici europei. E, giusto, è stato lanciato da pochissimo ed è proprio una raccolta di sagre, di feste. Come mai è nato questo portale, Teodora? Vabbè, l'idea è nata da un dato di fatto, che è la diversità culinaria dell'Europa, e inoltre adesso i prodotti gastronomici europei sono tra i più ricercati al mondo. Sì. E quindi il portale offre una serie di eventi, serie legate alla gastronomia, ma anche ricette, c'è una lista dei certificati di qualità dei prodotti alimentari a livello europeo e ci sono gli itinerari gastronomici. Mm-hmm. Sì, diciamo che l'iniziativa è stata ideata dall'unità turismo della Commissione Europea, che fa parte della DG Impresa, okay, presieduta dal commissario italiano Antonio Tajani, e poi noi come Commissione Europea del Turismo abbiamo sviluppato il progetto e ce ne occuperemo da adesso in poi. Uh-huh. Anche dai recenti dati di Eurobarometro, insomma, il turismo rimane uno dei settori primari dell'Unione Europea, il turismo. In questo caso noi mettiamo sempre e spesso la cultura al centro, in questo caso è una cultura che fa tantissima economia, muove tanti soldi e veramente, soprattutto anche per i giovani e per i giovanissimi, ci sono mille possibilità anche per nuove forme di turismo, e poi ci sono quelle tradizionali, in questo caso si parla di gastronomia e questo portale mette proprio al centro itinerari gastronomici e non solo. È un portale facile da navigare? Come è strutturato? Sì, è molto semplice, si può fare una ricerca per paese, regione o prodotto e da lì si può pianificare un itinerario gastronomico, c'è anche la lista, come ho già menzionato, degli itinerari gastronomici. Mm-hmm. E c'è anche un ricettario con piatti tipici di diverse regioni europee, e c'è una lista di prodotti che hanno il marchio di origine europea, DOP, l'indicazione geografica protetta, eccetera. Ma si possono anche fare segnalazioni, non lo so, le singole associazioni, i singoli comuni che organizzano attività particolari? Sì. Sì, sì, sì. Diciamo che le informazioni disponibili attualmente sul sito sono state raccolte con l'approvazione delle agenzie nazionali del turismo, però ad oggi il portale è ancora in una fase iniziale. E le sue potenzialità diventeranno man mano maggiori quando gli enti locali, regionali e anche le altre organizzazioni del settore turistico-gastronomico ci invieranno il loro materiale promozionale. Quindi è già disponibile sul sito un semplice formulario, si compila con eventi, ricette o altre informazioni legate alla gastronomia e poi noi le pubblichiamo su Tasting Europe. Mm-hmm. E speriamo che di ricevere tante informazioni. Certo, insomma, anche un portale interattivo che può crescere grazie al contributo dei navigatori, delle persone. Hai qualche storia particolare da segnalare per capire proprio il gusto di questo sito? Sì, il sito permette di allargare i propri orizzonti sulla ricchezza culinaria europea e a me mi è rimasta impressa una rotta culinaria, che è quella della cioccolata, ma non tanto per il prodotto quanto per la lunghezza della rotta, che attraversa 5 paesi. Sì. Parte da York nel Regno Unito e arriva fino alla Sicilia. E anche la lista delle ricette può essere molto utile per chi ama scoprire, sperimentare nuove pietanze. È un arricchimento culturale, la nostra comune ricchezza gastronomica europea è una cosa che noi dobbiamo apprezzare. Uh-huh. Tu Teodora di dove sei? Bulgara. Uh-huh. E dov'è il tutto? Dov'è il vostro quartiere generale? Bruxelles? Sì, siamo a Bruxelles. Uh-huh. Hai curato qualcosa di particolare sulla Bulgaria in questo portale? Sì, ho scoperto ferie inimmaginabili e Devo dire che stiamo ricevendo ogni giorno tantissime informazioni, quindi ogni giorno c'è una nuova cosa da scoprire, è fantastico. Perché insomma è un grande, di fatto è un grande ricettario europeo. L'Italia tra l'altro insomma è un po' la nazione delle sagre, quindi immagino ci sia tantissimo spazio relativo alle sagre, che sono dei micromondi dove veramente la cultura gastronomica può esplodere, può dare il meglio di se stessa. Però non solo le sagre, non solo gli eventi, cioè vale tutto quello che fa parte dell'itinerario, di un possibile itinerario gastronomico, può trovare spazio in questo sito, giusto? Sì, tutto quello che è legato alla gastronomia, possono essere anche delle informazioni su un prodotto specifico DOP, questo già lo pubblichiamo. Ok, e ricordaci il portale, qual è l'indirizzo? www.tastingeurope.com. Perfetto, grazie davvero e buon 8 marzo anche a te, Teodora. Grazie. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao. Ciao. Europost-it. Borse di studio Heinrich Böll per la Germania. La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione circa 1000 borse di studio per altrettanti laureandi, laureati e dottorandi di tutte le discipline, sia scientifiche che umanistiche, di tutti i paesi dell'Unione Europea e dei paesi vicini. I candidati devono avere un ottimo curriculum accademico, una conoscenza della lingua tedesca altrettanto elevata e dimostrare di avere un interesse attivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione, legati all'ecologia, alla sostenibilità, alla democrazia e al rispetto dei diritti umani. Per saperne di più e conoscere le scadenze, andate sul sito della Fondazione Böll, böll.de, nella sezione Scholarship. Questi sono i nostri Europost-it. Vi ricordo che potete ritrovarli o nelle nostre pagine virtuali Facebook e Twitter, l'account, il mio personale Federico Taddio, oppure Euronet Plus R24, o tutto questo lo potete ritrovare anche sul nostro sito radio24.it, da dove sarà possibile riascoltare la puntata e trovare tutte le coordinate relative agli argomenti che abbiamo toccato. Tastingeurope.com era l'ultimo sito, e con questo sito di itinerari gastronomici insomma è il lancio migliore per il nostro gastronauta, il nostro Davide Paolini, che sarà in onda subito dopo il GR24. Come sempre grazie a tutta la squadra di Radio 24 e dell'Altra Europa, e Katia Marinelli e Margherita Aina che con me hanno scritto la puntata, Giorgio De Luca in assistenza. Non mi ricordo il nome del mio tecnico di oggi, dimmelo. Gianmarco Frenato oggi alla parte tecnica, grazie, scusa Gianmarco, ma lo sai che insomma è un grande classico. Ancora buon sabato da Federico Taddia, ci ritroviamo qua in diretta come sempre fra 7 giorni. Ancora ciao e ancora buona Europa. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.